Ecco, allora benvenuti all'ultima conferenza della serie Storia in Biblioteca. Questa sera abbiamo il piacere di avere con noi i professori Ivo Matozzi e Luca Pest, rispettivamente dell'Università di Bologna e dell'Università di Venezia. Concludiamo questa rassegna, questo ciclo di conferenze con un tema particolarmente a noi caro che riguarda la storia locale. Il titolo infatti è Le fonti per lo studio della storia locale, come e perché si insegna la storia locale. Questa biblioteca ha proprio come focus, come missione, quella di raccogliere la documentazione che riguarda il nostro territorio, quindi anche la storia locale. E siamo particolarmente quindi curiosi e saremo attenti a quello che verrà detto dai due professori. Volevo ricordarvi, ecco, che queste nostre iniziative sono pensate anche per pubblicizzare la nostra struttura, ma soprattutto il patrimonio bibliografico e il lavoro che viene fatto di raccolta di documentazione da questa biblioteca. Chiaramente è una biblioteca un po' specialistica, quindi non conoscerà mai un grande afflusso di persone, di pubblico, però abbiamo già visto in questo primo anno e mezzo di apertura al pubblico che la raccolta e i documenti così che vengono messi a disposizione del pubblico incontrano comunque un grande interesse e hanno un certo diciamo, si riscontra un certo successo, ecco. E anche se destinati poi in realtà ad un pubblico più particolare di studiosi. Cedo adesso la parola a Giorgio Delle Donne. Vi ricordo, colgo questa occasione, ecco, che la prossima settimana ci sarà la presentazione di un libro, ci sono le locandine anche a disposizione per conoscere i contenuti. Vi ringrazio e a più tardi. Uscendo dagli eleganti giri di parole di Valeria, parlando di quantità e di qualità, è appena il caso di ricordare che quando negli anni 70 si facevano delle iniziative politiche che andavano particolarmente male, ci si ricordava sempre a vicenda che anche il Partito Comunista Cinese di Mao era stato fondato da sole 14 persone, ma che però aveva portato poi dopo a quello che aveva portato. A parte questo, questa consolazione. E quarto e ultimo incontro di questa miniserie 2 più 2, cioè due incontri due relazioni di contenuto, diciamo così, e due incontri riguardanti il metodo. Il primo sui luoghi della memoria, la politica della memoria in Italia con Bruno Tobia, il secondo su storie mass media con Pino Ortoleva e Gianni Faustini. Il primo incontro sul metodo, lo scorso lunedì con Tommaso Detti, sul mestiere di storico all'epoca di Internet. Quarto e ultimo su come si studia e come si insegna la storia locale. Che è una questione che può sembrare anche questione di lana caprina, diciamo così, no? C'è una metodologia sulla storia locale, perché secondo alcuni la storia locale non è altro che la storia localizzata su una piccola scala. In realtà non è proprio così, nel senso che non è solamente un problema di zoomata, riprendendo la metafora di cui parlava Tommaso Letti la settimana scorsa, no? Ecco, quando diceva la storia vista, cioè la storia generale, la storia locale, come il terreno visto dal paracadutista che da 1.000 metri vede tantissimo, e il cercatore di tartufi, no? Che va e scava in un metro quadrato e sta lì giorni e giorni a scavare in questo metro quadrato. Non è solamente un problema di scala, è un problema anche di scelta di confine, di scelta di scala. Così come lo storico che, pur vivendo nel presente, decide qual è l'argomento da studiare e qual è anche il periodo da studiare. E la scelta dell'argomento e del periodo già condizionano pesantemente i risultati della ricerca, ecco. Anche la scelta dell'ambito territoriale da studiare è una scelta che condiziona la ricerca. Proviamo a pensare, ad esempio, al concetto di integrazione e assimilazione applicato in Alto Adige, dà risultati completamente diversi se studiato su tutto il territorio del Altotesino, sulla Bassa Tesina, sulla Pusteria, va bene? Sull'Alta Val Venosta. Dà risultati completamente diversi se applicato alla fine dell'Ottocento, durante il ventennio fascista o negli ultimi 20 anni del secolo scorso. Quindi vedete che anche la scelta della scala è una scelta molto, molto importante. E anche le fonti sono fonti che sono diverse, cioè le fonti locali sono fonti a volte diverse dalle fonti che si utilizzano quando vogliamo fare la storia nazionale o internazionale. Pensiamo ad esempio, so, chi volesse provare a ricostruire la storia dei partiti italiani o delle organizzazioni sindacali dell'Alto Adige negli ultimi 50 anni, non potrebbe lavorare su fonti locali per il semplice fatto che non esistono più. Cioè non esistono più questi partiti, ma non esiste più neanche l'archivio, neanche la memoria di questi partiti. Mentre paradossalmente dovrebbe andare a Roma, perché a Roma, nella serie degli istituti che hanno preso in eredità, diciamo così, anche tutta la documentazione di questi partiti, esiste ancora qualcosa su questi partiti. Quindi vedete che per quanto riguarda la metodologia di analisi ci sono dei problemi abbastanza interessanti. Per quanto riguarda poi la didattica della storia locale, anche lì ci sono problemi pro e contro, come sempre. La didattica della storia locale, per certi aspetti, è una cosa che risulta molto più facile, di facile approccio, no? Sia con i bambini della scuola materna, della scuola elementare, sia con i ragazzini delle scuole medie, delle scuole superiori, è più facile partire dal locale. Uno può partire già dalla denominazione, ad esempio, l'intitolazione della scuola, non so, la scuola elementare Longon, qua vicino, per dire chi era Longon, va bene? Personaggio della Resistenza, cos'è la Resistenza? Uno può partire dalla odonomastica, ad esempio, no? Sempre dalle scuole. Non a caso le nostre scuole superiori italiane sono tutte collocate qua dietro il Monumento alla Vittoria, in una zona dove le strade sono via Cadorna, via Diaz, piazza 4 Novembre, piazza Vittoria, via Ambalagi. Va bene? Allora sarebbe interessante vedere quando è stato costruito questo quartiere, va bene? Perché sono state intitolate a queste persone? A chi erano intitolate prima, se esistevano prima queste strade, oppure perché hanno cambiato il nome, non so, perché Corso Libertà prima si chiamava Piazza via Corso 8 Maggio, ad esempio, no? Quindi la storia locale può essere così facilmente utilizzata ed è possibile quindi anche utilizzare la città come aula, no? Come diceva McLuhan, no? Ecco, questa è una cosa molto, molto interessante. Però chiaramente ha anche un aspetto negativo la storia locale, ad esempio qui da noi. Così come per certi aspetti è più facile insegnare il tedesco agli italiani di Napoli che agli italiani di Bolzano, perché gli italiani di Napoli vedono il tedesco come una lingua straniera, ma come una lingua, non hanno anche un pathos negativo, diciamo così, rispetto a questa lingua, va bene? Anche per quanto riguarda l'insegnamento della storia locale, molto spesso ci sono delle resistenze nelle scuole di lingua italiana, perché viene vista questa cosa come una cosa che bisogna subire, no? Una storia locale di un altro che bisogna subire per, diciamo così, che viene imposta, va bene? Mentre ovviamente non è questo lo spirito che dovrebbe avere l'insegnamento della storia locale anche in un territorio come questo che ha visto il secolo scorso, cambiare i confini, spostare i confini, cambiare il rapporto maggioranza-minoranza e via di questo passo. Per questo motivo quindi abbiamo invitato Luca Pes e Ivo Mattozzi. Luca Pes è un ricercatore dell'Università di Venezia, si è occupato molto di storia locale. Ah, beh, prima come sempre, scusate, tre indicazioni bibliografiche molto molto veloci. Questo libro, La storia locale, percorsi e prospettive degli anni Ottanta, un libro ormai datato però sempre attuale. Questo libro sulla storia locale e storia regionale, il caso Veneto, molto interessante perché riprende anche il discorso dell'utilità dell'insegnamento della storia locale. E questo libro, scusate, questo è uno spot pubblicitario perché l'ho curato io, e raccoglie gli atti di un convegno svolto nel 94, Ricerca didattica della storia locale in Alto Adige. Abbiamo fra il pubblico anche Christoph von Hartungen, che è uno degli autori di un saggio di storia della storiografia sul tirolese, e in quell'occasione per la prima volta forse è venuto Ivo Mattozzi a Bolzano nel 94, e questo poi ha portato Ivo Mattozzi a diventare anche un consulente della sovrintendenza dell'istituto pedagogico e anche docente all'università di Bressanone, no? Mi sembra un incarico anche all'università di Bressanone. Finito questo spot bibliografico, appunto, Luca Pes, ricercatore presso l'università di Venezia, si è occupato di storia contemporanea e di metodologia, diciamo così, della ricerca di storia locale. E Ivo Mattozzi, docente di storia moderna all'Università di Bologna, è uno di quelli che già alla fine degli anni Ottanta ha cominciato a mettere in discussione il manuale così com'era all'epoca, proponendo un uso, diciamo così, alternativo della didattica, l'uso della didattica come laboratorio, no? Che avrebbe dovuto in qualche modo superare l'uso passivo del manuale. Però dovete pensare che la critica ai manuali era la critica ai manuali di quell'epoca, i manuali degli anni 70, no? Che visti adesso, insomma, sembrano veramente quasi degli stupidari per certi aspetti, insomma, no? Quindi Ivo Mattozzi è uno storico di storia moderna, si occupa di didattica della storia e nello specifico ha portato avanti il discorso di storia della didattica della storia locale. E noi qui abbiamo avuto ospite lo scorso autunno anche Maurizio Gusso, che è anche uno degli esperti di didattica della storia, no? Però ognuno poi c'è la sua specializzazione. Sicuramente Ivo Mattozzi è all'interno di questo pool abbastanza limitato di docenti universitari che hanno sempre avuto a cuore il rapporto con la didattica, ecco, quindi non si sono così tirati in una torre d'avorio a fare le loro elaborazioni teoriche, ma hanno sempre cercato di intervenire nel dibattito anche professionale, no? degli insegnanti, dei corsi di aggiornamento, così, Ivo è uno di quelli che ha sempre puntato molto sulla didattica della storia locale. Quindi due interventi direi di mezz'ora l'uno e poi spazio eventualmente al dibattito. Passo il microfono qua al centro. Ecco, a Luca. Buonasera a tutti. Io ho organizzato questa brevissima relazione in due parti, e cercherò di dedicare circa un quarto d'ora a ciascuna. E nella prima vorrei cercare di illustrare la mia posizione sui rapporti tra storia locale e storia generale, e nella seconda parte invece volevo affrontare un po' il problema delle fonti che si possono usare nelle ricerche storiche. Per certi versi sono molto contento di essere qui per via di questo, che questo è un luogo fortemente segnato, no, da conflitti di identità. E adesso vedrete un attimo perché, diciamo così, sono contento di proporre questo tipo di visione sulla storia locale qui. E Giorgio parlava del problema della scelta di cosa e come studiare la storia, il problema della scala. Ecco, io sostanzialmente il problema del rapporto tra storia locale e storia generale lo vedo come un problema che può essere affrontato in due modi molto diversi a seconda di che cosa si intende per storia locale. Perché per storia locale possiamo intendere storia di piccole aree, no? Tipo la storia del villaggio, la storia della parrocchia, la storia del quartiere, appunto, come diceva Giorgio, sono scale diverse, ma sempre scale territoriali e generalmente legate a confini amministrativi, cioè che sono collegati al potere politico amministrativo. Mentre la storia generale, di solito per storia generale si intende la storia nazionale o la storia europea, e in mezzo c'è anche la storia delle regioni, che anche queste particolarmente adesso hanno avuto uno sviluppo notevole e che possono essere intese sia come storia locale se visti dalla storia nazionale o come storia generale se visti dalle storie locali. Non dimentichiamo che adesso le regioni in Italia, per via del processo di devoluzione, insomma, spesso anche in certi discorsi politici assumono quasi un valore di etno regioni, no? Quindi quasi regioni nazionali, e molte storie delle regioni sembrano quasi delle storie nazionali, cioè che operano una certa forma di nation building, no? Di costruzione di un'idea di nazione, in questo caso di regione-nazione. In questo contesto la storia locale si configura come storia di identità di luogo, cioè storia che costruisce l'identità, e gli argomenti che vengono scelti, i temi che vengono scelti e il modo in cui vengono trattati assumono una importanza, vengono giustificati, diciamo, la loro scelta viene giustificata sulla base del fatto che coinvolgono persone del luogo o che coinvolgono l'identità del luogo. Questo tipo di storiografia in genere si rivolge a un pubblico locale e rispetto alla storia generale, diciamo, è un po' la storia generale in un certo senso è più esaustiva, no? È quella che fornisce il contesto, è quello che dà l'informazione più compiuta, più piena, mentre questo appunto si tratta semplicemente di vedere come si può dire, la variante locale, no, della storia, la storia del movimento operaio in Alto Adige è una variante locale della storia del movimento italiano o del movimento, non so, tedesco, tirolese, non so, austriaco. In questo caso, in genere, il luogo che viene prescelto e di cui si costruisce l'identità attraverso la semplice narrazione dei fatti che ribadisce l'esistenza dei bolzanesi no? Anche magari facendo storie anche complesse, ma che alla fine, proprio perché la scelta è motivata soprattutto semplicemente dal fatto che questi avvenimenti si svolgono in quel luogo, non fanno che confermare l'esistenza, no? Per non parlare poi di quelle storie di città, no, che partono dalla preistoria, diciamo addirittura allo studio della geologia e del terreno, prima ancora che la città nascesse, che viene presentata sempre come una storia della città, no? Però alla fine un percorso evolutivo di questo tipo non fa che confermare che quella città è, diciamo, nell'essenza è rimasta sempre lei stessa, nonostante le varie variazioni, nonostante in un certo periodo non c'erano neanche ancora degli insediamenti, insomma, paradossalmente, insomma. Il destino c'è scritto, insomma. Sì. Ecco, questa identità, questa esistenza del luogo non viene assunta mai come problematica, non viene mai messa in dubbio da una discussione o da un'analisi delle diverse ipotesi, no? Ci sono dei luoghi dove ci sono per esempio dei forti conflitti identitari che, vabbè, non sto parlando nel caso qui, cioè all'interno della stessa città, poi bisogna vedere come viene percepita, no, dalle diverse persone nelle diverse fasi storiche questo oggetto che viene chiamato in un determinato modo. Ma insomma, quello che voglio dire io è che come Benedict Anderson, no, ha reso problematico e storicizzato il concetto di nazione, così possiamo anche storicizzare le idee di luogo, no? Cioè, adesso non ricordo, ma nella letteratura sul territorio c'è qualcuno che ha detto che non esistono i luoghi, esistono le immagini e le descrizioni dei luoghi. Cioè i luoghi sono delle cose, sono luoghi perché gli attribuiamo un senso, ma non sono dei luoghi lì, no, come delle cose esistenti, no? Perché un luogo diventa un luogo perché gli vengono attribuiti i significati, perché si svolgono delle funzioni sociali, perché ci sono delle descrizioni di questi luoghi. E allora, se diciamo c'è questo problema, allora dovremmo renderlo le descrizioni dei luoghi e l'idea di luogo stesso dovrebbe essere il primo passo, no, di qualsiasi attività, di qualsiasi ricerca sul territorio. Allora, questa è la prima idea di storia locale, che è quella, una storia locale che fa storia del luogo, storia della città, storia della regione, eccetera. L'altra, è possibile però fare un tipo di storia locale diversa, che è una storia locale che si chiama locale perché comporta un'attività storiografica in un luogo, quindi è una storia nel luogo, dove il luogo non è la principale personalità, il principale soggetto della ricerca. Cioè non è quello che conferisce, no, questo valore locale alla ricerca, ma è una dimensione locale. E in questo senso, forse, io userei il termine di scala, applicato in questo caso, non al caso dei luoghi definiti da confini amministrativi. Dicendo storia nel locale, io parafraso un antropologo, che è Clifford Geertz, che parla appunto di antropologia nel villaggio, cioè dove è un'antropologia che non presume l'esistenza già di una comunità, ma va attraverso descrizioni dense, descrizioni dettagliate di quello che avviene, di riti, di rapporti familiari, di legami tra persone. Attraverso questo poi eventualmente si arriva a un'idea di reti, a un'idea, no, di eventualmente di comunità, ma sempre come un fatto, diciamo, storico, un fatto socialmente determinato, no, un fatto frutto di una immaginazione di un gruppo, dell'immaginazione, dell'immaginario di un gruppo. Da questo tipo di storiografia è più vicina alla microstoria, a questa idea che appunto bisogna studiare nel locale, perché nel locale, cioè nella piccola scala, attraverso piccole storie, capiamo molto di più di fenomeni storici che caratterizzano l'umanità o la cultura del bacino mediterraneo. Cioè, per esempio, Giovanni Levi, che è uno degli storici fondatori di questa collana Microstoria, insieme a Carlo Ginzburg, delle Einaudi, che è stata molto importante dal punto di vista del contributo al dibattito storiografico sulla metodologia della storia, sostiene che, per esempio, può dire molto di più sul capitalismo, cioè sul concetto di capitalismo, sul concetto di commercio in un dato periodo storico, lo studio di un piccolo mercato, dei rapporti tra i mercanti in un piccolo mercato della Turchia del 300. Piuttosto che di Bolzano, sì. Sì. Il mercato c'erano le fiere e quindi sì, va bene. Comunque, questo è perché nella piccola scala riusciamo a vedere delle cose che non si vedono nella grande scala. Per esempio, i rapporti personali, i rapporti di parentela. Se si guarda il mercato della terra. Il mercato della terra, va bene, astrattamente, diciamo, nei grandi volumi sulla proprietà terriera, sulla storia, nel lungo periodo, eccetera, si parla di domanda e offerta, no? In realtà, se si va a studiare sulla piccola scala, si vede come i prezzi possono essere determinati da altri fattori che non siano sempre il nudo e freddo meccanismo di mercato. Per esempio, i rapporti personali. Perché se tu hai ricevuto un favore da qualcuno, no, gli vendi la terra a un prezzo inferiore. A tuo cugino vendi la terra a un prezzo inferiore, perché magari preferisci che la terra resti dentro la famiglia, no? Questi non sono fatti occasionali, sono parte delle strategie delle famiglie dei mercanti, no? Quindi queste cose vengono fuori molto molto bene nella dimensione locale. Ecco, dunque, nella dimensione locale direi che è più che si sceglie un determinato argomento perché quell'argomento interessa. Cioè, la storia di una famiglia perché quella famiglia interessa, la storia di un gruppo di anarchici perché interessa il gruppo di anarchici. Il fatto di scegliere gli anarchici a Bolzano è una scelta, diciamo così, che può essere di comodità, di quantità di fonti disponibili, no? Cioè non, il gruppo anarchico non viene scelto perché siamo interessati a Bolzano, no? Ma perché siamo interessati nel gruppo degli anarchici, nello studiare il movimento anarchico, un movimento politico in un determinato periodo storico. In questo contesto anche appunto consente di studiare quando interessa Bolzano come fatto problematico, come città immaginata, no? Quindi non come cosa, non è che si comincia una storia già con il pregiudizio che esista una comunità o che esistano due comunità di Bolzano, ma si parte, no, con l'idea di studiare quali sono le immagini di Bolzano che sono state prodotte in una determinata epoca, oppure quali sono le idee di città che hanno gli abitanti di Bolzano o che hanno avuto dal 40 al 70 attraverso, non so, il racconto dei luoghi significativi o i luoghi dove si andava ad amoreggiare, per esempio, no? Lì viene fuori questo, un legame, diciamo così, viene fuori una varietà di possibili visioni. In questo caso sfuma la differenza tra storia generale e storia locale, perché non è più un problema di matriosche, no? Una scatola dentro l'altra, dentro l'altra, dentro l'altra, ma diventa una questione di due modi di vedere la stessa cosa, in sostanza. Perché la storia perché in realtà tutti i fenomeni storici si manifestano prima di tutto localmente, come l'11 settembre per esempio, no? Cioè, si manifesta localmente a New York, ma si manifesta localmente anche qui, mentre guardiamo la televisione, no? Perché la vita dell'uomo e delle donne si manifesta, cioè viene vissuta, diciamo così, in un luogo. Da questo punto di vista, la storia generale è semplicemente un grado di astrazione in più, no? Un grado di astrazione e quindi anche sotto certi punti di vista di semplificazione necessaria per fare discorsi più generali e per fare delle comparazioni, ma un grado di astrazione in più. Allora, questi sono i due modi, secondo me, di vedere questo rapporto tra storia locale e storia generale. Uno all'interno di un discorso sulla storia del locale, uno all'interno del discorso della storia nel locale. No, uno all'interno di un discorso dove conta molto il territorio come scelta pregiudiziale, e invece l'altro discorso dove il locale è semplicemente la dimensione locale. Non so se sono stato abbastanza chiaro, ma magari possiamo ritornare dopo. Sono ben felice di cercare di spiegarmi meglio successivamente. Per quanto riguarda le fonti, le fonti sono... Ma io ecco, per fare un discorso sulle fonti, io partirei da alcune premesse. Una prima premessa è che il passato non esiste, no? Come ha detto Sant'Agostino, esiste il presente del passato, il presente del presente e il presente del futuro, perché il tempo che noi viviamo è il presente. E il passato possiamo solo ricostruirlo, tentare di ricostruirlo con i mezzi e con gli scopi del presente, e quindi facciamo un'operazione comunque di memoria in fondo, no? un'azione che è un'azione presente. L'altra cosa è che tutti i documenti sono fortemente intrisi di soggettività, cioè della soggettività di chi ha prodotto il documento. Pensiamo anche al questore che fa un rapporto su una manifestazione. Quel questore avrà avuto degli obiettivi, magari far vedere che fa bene il suo lavoro, oppure far vedere che non sta succedendo niente, o far vedere piuttosto che c'è bisogno di più personale nella questura locale. Insomma, ecco, quindi da questo punto di vista, diciamo così, vale quella fortunata espressione di Jacques Le Goff, no? Che non c'è differenza tra documento e monumento. No, questo avrà delle conseguenze sulle cose che sto per dire. Comunque, l'altra cosa è che tutto può essere fonte di storia. Qualsiasi cosa, anche una crepa sul muro, paradossalmente, diciamo, sempre che abbiamo i mezzi per trattarla criticamente, perché come sapete anche le fotografie non hanno nessun valore se per un discorso storiografico, se non riusciamo a capire dove è stata scattata, in che anno, da chi, per quale motivo, no? A meno che non abbia avuto un uso successivo che appunto comunque ci consente comunque di fare un discorso ulteriore. Io distinguerei le fonti in due gruppi, in due grossi gruppi. Uno sono quelle fonti che lo storico si trova in determinati luoghi o comunque trova già confezionate. Le altre sono le fonti che lo stesso storico crea, perché ci sono delle fonti che lo storico può costruirsi, ovviamente con una certa metodologia. Per esempio le interviste, no? Attraverso la storia orale, oppure attraverso anche sopralluoghi sul campo, ecco, su lavori sul campo, che arriverò in un momento a questo, perché prima voglio trattare brevissimamente sulle questioni delle fonti che lo storico trova già confezionate, naturalmente dal punto di vista della storia locale, per la natura. Tra le fonti più classiche, se siamo interessati prevalentemente in questioni di ordine pubblico o questioni politiche, l'archivio di prefettura è quello. Sto parlando di fonti italiane, tra l'altro, adesso mi accorgo, perché sono quelle che io conosco meglio. In ambito austriaco ci sono le fonti di polizia, lo stesso comunque. Quelle della, diciamo così, del governatore o appunto del prefetto sono le cose più importanti, soprattutto il gabinetto di prefettura, perché c'è anche un fondo di prefettura più generale che è invece più amministrativo, c'è anche delle parti proprio sulla gestione economica della sede della prefettura. Però invece l'archivio di prefettura, il gabinetto di prefettura è molto interessante, perché fa capire, ci sono tutti i rapporti del prefetto al Ministero degli Interni, per cui viene dato un riassunto, insomma, sull'ordine pubblico e anche sulla un po' sulla, come si può dire, sullo stato anche dell'opinione pubblica, no, rispetto a certi problemi. Per esempio, quando c'è stata la presa di Fiume, i prefetti raccontavano se c'erano state manifestazioni, qual era l'opinione prevalente tra le persone più notabili, no? Insomma, un po'. Cioè, questa idea, insomma, che il prefetto deve tenere un po' il polso della situazione, deve sapere la temperatura un po' del luogo. Ecco. Quindi questi sono documenti abbastanza piuttosto interessanti. L'archivio di prefettura, il gabinetto, contiene anche, per esempio, onorificenze, cose così che sono interessanti per ricostruire anche piccole biografie, perché venivano allegate del notabilato locale, venivano allegate le ragioni, no? Magari c'erano delle contestazioni anche sulla consegna di determinate onorificenze a certi personaggi che magari erano stati austriacanti o altro. E poi ci sono anche tutte quelle interessanti sono anche le varie petizioni, per esempio a Venezia, dopo, quando Venezia entra nel Regno d'Italia negli anni 60, cioè nel 66, subito dopo ci sono tutti quelli che chiedono sussidi o altro tipo di cose per essere diventati poveri per via del 48-49, o magari per cause di ferite, altre cose. Quindi c'è tutto quell'aspetto lì, oltre a esserci anche tutto il rapporto sulle scuole, per cui per esempio nel 66 a Venezia c'erano tutti i rapporti sulla presenza di austriacanti nelle scuole statali, no? E quindi c'erano piccole schede su ogni professore. Poi ci sono gli archivi comunali, danno uno spaccato molto diverso, meno preoccupato con questa, meno sospettoso, perché il prefetto è sempre preoccupato con l'ordine pubblico sostanzialmente, e poi ha questo rapporto con lo Stato centrale, mentre il comune esprime forse meglio la comunità locale, perché lì sono presenti tutte le associazioni operaie, per esempio, cioè ci sono grossi epistolari, poi c'è anche l'attività, non so, dell'edilizia pubblica, e anche la congregazione di carità, ci sono molte, insomma, molto più in profondità, diciamo, molto in più profondità anche nella condizione sociale, e con richieste, per esempio, non so, di licenze di pesca, oppure no, si scoprono, per esempio, che c'erano luoghi, per esempio nell'arsenale, non so, c'era chi aveva diritto di pesca a Venezia, oppure anche altre cose, le società di mutuo soccorso, per esempio. È molto facile ricostruire la storia del movimento operaio attraverso archivi comunali ben tenuti e ovviamente accessibili. le assistenza e beneficenza. Sì, c'è tutta l'assistenza e beneficenza, poi sì, ci sono anche c'è anche tutta la gestione urbanistica, no? Perché i comuni fanno anche gli sventramenti, fanno le nuove strade, per cui c'è anche questo aspetto. Non è che non posso, ovviamente, non è qui, non è luogo darvi tutta una un racconto, farvi un racconto dettagliato, insomma, delle fonti che io in particolare ho visto, mi sono risultate particolarmente utili. Voglio solo citarvi alcune, cioè per esempio c'è tutta la attraverso gli archivi notarili e anche gli archivi, l'archivio della conservatoria immobiliare, per esempio, è possibile ricostruire tutte le trasmissioni di proprietà per via di eredità, per via di permute, per via di acquisti o vendite. E veramente si riesce a, attraverso, incrociando questa fonte con le fonti del registro di popolazione che stanno in archivio comunale e anche i registri migratori e i registri di leva, perché i registri di leva indicavano se uno era emigrato, per esempio, quella, recuperi persone che non sono state registrate nel comune come persone che sono, si riesce a fare dei quadri familiari abbastanza dettagliati sulla composizione delle famiglie, sulla composizione intendo non solo madre, padre, figli e quanti figli, ma anche che età, e quindi a che età, quanti figli di che età se erano già in delle forze lavoro, eccetera, eccetera, e anche strategie di vendita e di acquisti delle famiglie. Io ho fatto un lavoro sul Trevigiano e viene fuori un quadro piuttosto movimentato, dove le famiglie avevano già piccole proprietà e c'erano vere e proprie strategie proprietarie, e l'emigrazione era spesso causata dalla voglia di diventare proprietari, quindi non dalla povertà, ma faceva parte di una strategia proprietaria. Queste fonti sono ricchissime se uno vuole, è interessato in questo tipo di problematica, che ovviamente a livello locale sono veramente danno molta soddisfazione. Ci sono poi tutte le fonti a stampa, tipo i giornali, gli opuscoli, vabbè, questi notevoli. Però poi ci sono anche le collezioni private, possono essere fonte di, anche queste diventare fonti. Per esempio, adesso come c'è questa associazione a Mestre di storia locale, che si chiama Storia Mestre, che ha appena ereditato da un giovane che aveva un po' partecipato al movimento studentesco negli anni 70, tutta una raccolta di volantini, ma che saranno, non so, 6.000, non so, una roba grandissima, che lui aveva raccolto, movimenti del, cioè volantini dei sindacati di Porto Marghera, volantini dei movimenti studenteschi, insomma, cioè una raccolta, questo ovviamente può diventare, questa è una soluzione, diciamo, è vero, c'è negli ultimi anni, soprattutto diciamo a partire dal dopoguerra, in qualche modo abbiamo perso una cultura archivistica, perché nell'Ottocento tutte le istituzioni e le associazioni avevano proprio un senso della conservazione del documento. Oggi questo l'abbiamo perduto e stiamo perdendo infatti un sacco di raccolte documentali che peraltro erano spesso disordinate, anche se magari qualche sezione della DC e cosa aveva la fortuna di avere un archivista, così qualcuno che si era occupato di tenere un ordine. Quindi spesso questi archivi politici, perché questo ragazzo ha anche donato l'archivio della DC di un quartiere di Venezia, quindi che gli era stata donata lui, perché poi no, la cosa buffa è questa, quando sono finiti i partiti, magari l'individuo si è portato a casa, si è portato a casa l'archivio. E lo stesso è successo anche con alcune documentazioni della RSI o di brigate partigiane, che poi sono finite negli istituti per la storia della Resistenza, ma a volte sono anche finiti. Ma quello che può essere interessante sono anche collezioni private, qualche epistolario, no, che possono trovare, oppure anche gli album fotografici. Io ho trovato una signora che ha collezionato 3.000 fotografie e le aveva tutte organizzate. Già il modo in cui lei aveva organizzato questi album era molto interessante, perché si vedeva che cosa lei riteneva importante nella sua vita e che cosa no, no? E questo poteva essere, può diventare un racconto bellissimo di una storia di una donna della sua generazione, no, che ha vissuto in una periferia come Mestre, no, che ha fatto così questa, che ha questa, questa, non so, l'automobile, no? L'arrivo dell'automobile, il luogo del fidanzamento, questa, il matrimonio, eccetera, dove appunto fa uno spaccato abbastanza profondo, insomma, sui valori, eccetera. E altre fonti interessanti sono il cinema, per esempio. Il cinema è una fonte fantastica anche per la didattica, devo dire. Ma per esempio noi abbiamo la fortuna del neorealismo, che sono dei film girati uno, due, tre anni dopo la guerra, quindi abbiamo anche una documentazione proprio dei luoghi, di com'era Roma, per esempio, attraverso Ladri di biciclette, com'era Roma nel 48, oltre che darci anche un'idea di come erano vestiti e poi anche ovviamente dei valori intrinseci, cioè, dentro il film, pensati dall'autore, eccetera. Poi ci sono anche dei film che invece sono utili ricostruzioni, tipo tutti i film di Luchino Visconti, che era così ossessionato nei dettagli dei costumi, no? È già quella una ricerca sui costumi che può essere utile per mostrare, diciamo, come si vestiva nel Risorgimento, per esempio nel caso di Senso. Ecco, poi ci sono anche tutte le fonti sul territorio, cioè il territorio è una fonte di per sé. Come? Sì, i monumenti, poi anche i lotti gotici, Ivo mi mostrava prima questi i lotti gotici, cioè questi, si chiamano così, queste fette, questi negozi che sono lunghi, sotto i portici, sì, ecco, questo è ovviamente un segno. Non ti ho detto balle. Sì, no, infatti. No, poi ci sono i monumenti e le lapidi, che invece sono veramente delle azioni, no, per ricordare, che possono essere fonti di come in un certo periodo si sono volute ricordare certi avvenimenti. Passiamo invece alle fonti costruite dallo storico, e poi chiudo, vado rapidamente perché sono un po' oltre. Le fonti orali, vabbè, sono le interviste, anche, e qui diciamo le fonti orali, sulle fonti orali c'è spesso un grosso equivoco, perché secondo me le fonti orali non sono così utili per raccogliere informazioni su come vivevano 50 anni fa, perché uno, sono passati 50 anni, cosa vuoi che si ricordi veramente? Cioè, qualcosa si ricorderà, però non è la cosa più attendibile, sono molti più attendibili i documenti coevi, cioè i documenti di 50 anni fa ci danno uno spaccato. Invece quello che è interessante è quello che una persona, o quello che una generazione si ricorda dopo 50 anni. Quindi è un discorso sulla soggettività, sulla memoria, che non è un discorso meno interessante, perché appunto, no, esiste il presente del passato, e questo presente del passato è anche la memoria del passato, degli individui e dei gruppi. Poi c'è, ci sono, ecco, dicevo, sopralluoghi sul campo. Ecco, questo, diciamo, questa è una cosa un po' da Erodoto, dai greci, perché oggi non si usa più che lo storico sia presente, no, ai fatti che racconta, però è possibile anche fare così, cioè se per esempio si vuole fare, non so, capire qualcosa di più della storia della Lega Nord, si va a partecipare a un giuramento di Pontida. Allora, si va con un registratore e si registrano i suoni, i rumori, i discorsi, si va con un taccuino e si descrivono le bandiere, per esempio, che si vedono lì. È interessantissimo, questa è la prima cosa che si nota, è l'uso di bandiere. E poi anche, diciamo, io sono andato al primo giuramento di Pontida e c'era una certa non da militante, da storico. Non da militante, da storico, perché avevamo una rivista che si chiamava di documentazione storia del tempo presente, che appunto aveva la camicia verde, voleva produrre documenti, insomma, del tempo presente, con questo, a parte che ho visto, diciamo così, una No, c'era questa cosa che mi sembrava interessante, questa vaghezza dei confini del nord, che un po' è rimasta fino a un po' di tempo fa, e per esempio vendevano anche adesivi con l'aquila bicipite, con scritto Lombardo-Veneto, no? Oppure c'erano altre cose, c'era il passaporto della Repubblica del Nord, dove invece arrivava fino in Toscana, Umbria, eccetera, escludendo praticamente solo il Lazio il vecchio stato borbonico, insomma. Si può anche fare una, non so, se andare a una manifestazione e registrare. Io per esempio una cosa che ho fatto era durante la prima cosiddetta dichiarazione dell'indipendenza del Nord, della Padania, scusate. C'erano diverse manifestazioni. C'era quella di Bossi, dove campeggiava l'identità padana. C'era quella dei centri sociali, dove l'identità era il Chiapas. E i verdi col palloncino sopra il Po, no? Anche i verdi con le, sì, che sponde nel Po. Sì, i verdi, sì, c'era quella manifestazione lì, perché poi era una manifestazione che in realtà partiva dalle foci del Po e mettevano l'ampolla fatta a Murano. E sono andati, ma questo lo fanno ogni anno, la portano alla foce del Po, penso, e la versano nel mare Adriatico, versano l'acqua della foce, non si capisce, vabbè, che sarebbe comunque arrivata. Comunque, l'idea è quella di creare questa specie di rito celtico legato a...